Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui alle 9:08 minuti, signori, in questo venerdì 27 ottobre. Venerdì. Oh, ma... venerdì. No. Che sciagura che ci porta. Mi sono tenuta. È una sciagura che ci porteremo per tutto venerdì. Oggi canto senza soluzione di continuità, no, per cui chi deve cambiare stazione giorni, lo faccia. Perché gli altri adesso. Giorni invece no, gli altri giorni invece no. Tu mi stai castrando, questo è evidente, insomma. Questo è poco possibile. Mi però... devo censurare. Facciamo allora, bassissimo livello. Allora, sono le 9:09. Siamo entrati così in questo venerdì, i funamboli. I cari genitori, avete accompagnato i vostri bambini, le vostre bambine con le merendine alla scuola media? E a questo punto aspettate lì davanti per poi riprenderli. Tutto il giorno, no? Sì, adesso. Non andate nemmeno a lavorare, aspettate lì e poi li prendete e ve li riportate via. Poveri cucciole, tredicenni, quasi quattordicenni che il ministro Fedeli vuole, perché c'è una legge che lo impone, come abbiamo affrontato in varie puntate qui, che vengano accompagnati. Infatti ormai facciamo tendenza, sentite i funamboli quando adesso, volete capire adesso. Come degenereranno le notizie in un tempo breve. No. Se noi le affrontiamo pensando di tamponarle, state certi che saranno in prima pagina. No, ma il tema l'abbiamo affrontato varie volte, è il tema dei 14 anni che devono essere accompagnati, fino a 14 anni per la verità, quando compiono 14 anni sono liberi, non sono più bamboccioni, ma fino a 14 anni dovete prenderli e portarli e poi riprenderli, o meglio un adulto insomma deve ritirarli a scuola. Noi abbiamo affrontato l'aspetto magari. Per cui i presidi sono costernati, perché loro per primi dicono che è una cosa grottesca, però purtroppo sono costretti, perché come dice la ministra Fedeli, i presidi sono obbligati a far rispettare le leggi dello Stato e se si vuole innovare l'ordinamento bisogna farlo in Parlamento. Infatti forse è lì che andrebbe fatta una riflessione, non prendendosela. Questo, no, in tutto questo il ministro, voglio dire, tra l'altro però ha detto questa frase epocale, Tante volte quando uno poi parla, se sei ministro, ieri a Tagadaira, sì lo so, l'avete già sentita forse sulla Radio 24, un grosso sbaglio. I nonni. Un grosso sbaglio. Intanto per cultura sono una che rispetta le regole e quindi le leggi. Le erano con i nonni, per adesso sono piccini. Posso dire che è anche un grande piacere per i nonni andare a prendere i nipotini. Io lo considero una cosa fantastica, potessi farlo. Piccini, vanno i nonni. Per carità, il problema è chi magari il nonno non li ha. Esatto, ma chi magari il nonno chi ce l'ha allettato. Chi ha dei nonni che sono in altre città e sono tanti. O i nonni non possono andare, perché non tutti purtroppo, altrimenti avremmo risolto tutti i problemi, no, della gestione dei figli, della maternità con i nonni. C'è qualcuno che è fortunato e li ha e qualcuno no. Se continuiamo che i nonni tengono in piedi, come su tutto il resto, metà del sistema welfare. Sociale, è un questo po' un problema. Questo è vero, devo dire, spesso mi accusano anche a dire te la prendi con i pensionati. No, invece santi nonni, no, ma santi perché veramente. Sono il vero welfare di Stato, non pagato, anzi ti pagano con l'affetto, con l'amore, con la gioia. È inversamente proporzionale, più diminuisce veramente lo Stato sociale, più aumenta la presenza di questi nonni factotum che devono così fare da palliativo. Comunque, se volete chiamarci su questo, non è che lo approfondiremo con ospiti, ma 800 24 00 24, viva il ministro Fedeli, viva i piccini accompagnati dai nonni, piccini e piccine fino a 14 anni. Però prima di iniziare devo leggere una mail, cara Veronica. Allora, no, l'altro ieri, forse ricordate, abbiamo invitato Stefano Torre, il candidato futurista che sta già spopolando col programma Mi candido Presidenza del Consiglio, voglio un vulcano a Milano, voglio, poi cos'è che voleva, il matrimonio voleva a tempo determinato. Il matrimonio a tempo determinato, poi cosa voleva? E poi... poi voleva lo Ius Soli per 7 miliardi di cittadini in maniera tale da far rientrare il debito pubblico, sì, che ma anche soprattutto quello non era male. Voleva dichiarare guerra a San Marino. È vero. Bellissimo. Scrive l'ambasciatore di San Marino in Albania. Non ridi. Ma perché ridi? È una cosa molto seria. Questo? No. L'ambasciatore di San Marino in Albania, peraltro, quindi ci ascolta l'Albania, Giuseppe Maria Della Balda, è interessato a riascoltare la puntata in cui era ospite, non, come ci ha scritto lui, il senatore La Torre. Per carità, il senatore La Torre non c'entra niente, non ha dichiarato guerra a nessuno e non vuole farlo, ma Stefano Torre. Noi, se vuole, caro ambasciatore, lunedì la invitiamo insieme sempre a Stefano Forse, Torre, però, e facciamo un confronto per prima cercare chiariamo di qual era lo spirito, no, del nostro è Torre. Candidato futurista, che è così un po' un sovversivo avanguardista che per provocare, no, dice una serie di cose. Ora non lo vedo che ma domani si candiderà, insomma, si candiderà. No, lui si candiderà, però domani con le basi militari pronto, no, capito? No, no. Però quello è nel programma. Io rassicurerei l'ambasciatore. Vabbè, lo faremo in onda se gradirà l'ambasciatore Giuseppe Maria Della Balda. Però Veronica, dobbiamo iniziare perché dobbiamo parlare di un tema per cui abbiamo chiamato i nostri primi due funamboli, il tema che abbiamo affrontato ieri, e allora partiamo da qui. Introduce myself, I'm a man of wealth. Per la verità l'abbiamo affrontato solo raccontando questa vicenda che, se ricordate, 2 sì. maggio, un giovane di 17 anni spinge per scherzo su una scogliera un signore di 77 anni che muore. Sì, ne due spinge signori, due, è vero. Di cui è uno vero. Si salva e l'altro muore. Allora, il Tribunale per i minorenni di Bari, e ringraziamo qui il presidente che è con noi, Riccardo Greco. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ha deciso per questo 17enne che ci sarà questo sistema giuridico, questo importante anche innovazione, non neanche datata ma abbastanza recente, della messa alla prova, per cui questo giovane dovrà seguire un percorso di 3 anni, esatto, che adesso sì. lei ci spiega, e attraverso questo percorso, alla fine di questo percorso, se lo rispetterà, il reato sarà estinto. Sì. Cioè a 20 anni, se rispetterà tutto, questo ragazzo di 17 anni che ha ucciso una persona per scherzo e ne ha quasi uccisa un'altra, perché potevano essere due, non avrà reato estinto. Cioè la colpa sarà completamente cancellata e non resterà nemmeno menzione sul certificato penale, esatto? Sì, esatto, è proprio così. D'altra parte capisco che possa in qualche modo scuotere le coscienze, no, dell'opinione pubblica, quindi non ci sottraiamo alla critica, sì. ma uh-huh. Il senso del provvedimento sì. è un senso di recupero della socialità del minore. Mi spiego, noi abbiamo scelte legislative, che sono quelle, o di politica giudiziaria, che sono quelle di condannare una persona e tenerla in galera, oppure far vivere alla persona il percorso positivo di recupero, di comprensione della illegittimità del proprio comportamento. Guarda, presidente, lei ieri non avrà ascoltato, abbiamo dedicato 40 minuti di trasmissione sì. proprio al recupero. Mi dispiace. No, le dico a livello di carcere, però capisce che qui da proprio San Vittore, parlando proprio di questo. Qui proprio la pena non c'è, cioè nel senso non lo vogliamo rinchiudere in carcere, ma qui innanzitutto la pena non è detta che non ci sia. No, infatti io questo le volevo chiedere, perché la cosa che mi stupisce molto è il fatto che, se invece in realtà, perché voi avrete una sorta di report mensile che verrà fatto per capire se il ragazzo tiene fede agli impegni, esatto, qualora lui non fosse, insomma, adeguato alle misure che voi avete preso, a quel punto invece si avvierà un processo per omicidio preterintenzionale. Sarebbe un po' ingenuo, diciamo, la contestazione. Ecco, è qui che io trovo un elemento assurdo, perché nel momento in cui uno stabilisce che il ragazzo va reinserito socialmente, come dice lei, sì, perché ritiene sì, che quindi sì. non ci sia il dolo, non capisco perché se il percorso non è una questione che non c'è dolo, attenzione, sì. il percorso è diverso, anzi il senso di questo percorso previsto dalla legge, ovviamente, e scelto dal legislatore, è nel senso che il minore in questi 3 anni compie delle attività, che sono delle attività specifiche, nel caso di specie determinate da un progetto, e in questo caso è quello di assistenza agli anziani. Perché sì, aspetti che le faccio un inciso, quindi per 3 anni lui dovrà andare regolarmente a scuola e avere buoni voti, fare sport. Diciamo, lui, in questi 3 anni lui sarà in una comunità di recupero, quindi sarà sostanzialmente ristretto. Nel momento in cui va fuori solo per compiere delle attività che sono determinate, in questo caso sono determinate nell'assistenza agli anziani. Ed è voluto questa scelta, questo progetto, che è stato tarato sugli anziani, proprio perché la vita proprio in base a quello anziana. Che è successo. Certo. Sostanzialmente il ragazzo si confronterà con il disagio delle persone, con la difficoltà delle persone anziane, e recupererà, voglio dire, cambiare i pannoloni agli anziani, fargli mangiare, essergli vicino. Cioè, sono tutte comportamenti che servono a far capire il male che lui ha commesso, il danno che ha arrecato alle persone che ha ucciso e in genere, però, in Presidente, nei confronti dei soggetti. No, ma lei giustamente dice non ci si sottrae le critiche perché ci sono. Tra l'altro ci faccia salutare, chiaro, perché ci sta ascoltando, il direttore di Oggi, Umberto Brindani, nostro caro amico. Direttore, ciao e grazie di essere qui. Tipo di considerazione fai dopo aver ascoltato intanto le prime frasi, le prime spiegazioni del presidente del Tribunale dei Minori di Bari? Ma intanto, se mi permettete una piccola battuta, visto che voi fate tante, se fossi un anziano destinato a essere assistito da questo ragazzo non mi sentirei tranquillissimo, Invece, parlando più seriamente, io penso in generale che è vero quello che dice il dottor Greco, cioè la finalità di recupero che dovrebbero avere le pene, le cosiddette pene, insomma, anche in questo caso è poco pena. Però io penso che la magistratura dovrebbe tenere conto in generale anche di una finalità che chiamerei esemplare, e cioè cercare di evitare quello che si chiama effetto emulazione. Io ho il timore che con questa scelta, questa decisione del tribunale a proposito di questo ragazzo, si possa un po' ingenerare la considerazione che fare uno scherzo, come ha detto l'avvocato del ragazzo, cioè voleva far fare un bagno fuori stagione all'anziano. Io penso che il rischio sia, vabbè, allora Se facciamo degli scherzi non saremo puniti severamente. Ma infatti la mia sensazione è che si è sempre detto la rieducazione è fondamentale, dottor Greco, la rieducazione. Sì, però mi è sempre stato insegnato che c'è una punizione, cioè se uno fa un reato, punizione certo, e rieducazione. Qui la punizione la vedo un po' blanda, ecco, mi passi allora il termine, almeno blanda. Mi permetta di dire al direttore Oggi, guardate, i mass media, voi della radio, i telegiornali, e la televisione, i giornali soprattutto, avete un ruolo importantissimo in questa funzione preventiva, perché se si fa intendere il senso della misura e non si cede a invece atteggiamenti, come dire, più popolari, ecco, consentitemi il termine, per cui si dice, cioè non populisti, lei dice, populisti, no, anche un po' indulgenti, assolutori, non è questo. Guardate, un minore che si pone a confronto, un minore, ma qualunque persona, che si pone a confronto eticamente nei confronti della propria responsabilità di quello che ha fatto, e sta molto peggio e esce fuori da questa vicenda molto peggio che stare 6 anni su una brandina di un carcere a leggere i giornali. Cioè lei dice, capite? Sarà più rieducativo questi 3 anni sarà piuttosto che 10 anni in carcere. Ritiene che lo mette più a contatto con se stesso e con una presa di responsabilità. Ma sicuramente è un po' il discorso di ieri, no? Ma si facciano entrambe, cioè stia in carcere e qualche ora del giorno la passi in ospizio. Ma non voglio fare, come dire, rifare il processo. Mi permetta di dire, veramente dico altre due considerazioni. Noi avremo un risultato, che è il risultato di avere un ragazzo recuperato che viene reinserito nella società, rispetto a un ragazzo detenuto in carcere senza alcun effetto di maturazione, che tornerà a delinquere perché non ha avuto una possibilità di capire quello che ha fatto. Non so, Brindani voleva dire... Ma questo è il discorso che facevamo ieri in assoluto. Immagino. Brindani, che c'è? Volevo aggiungere una cosa, questa decisione del Tribunale di Bari si inserisce, come dire, in una sequenza recente che ha un po' allarmato le persone, insomma, c'è quel padre violentato che ha violentato per anni la figlia che ha goduto della prescrizione, c'è la storia di ieri di quell'uomo che ha ucciso in Friuli la fidanzata e dopo due mesi è ai domiciliari. Sì, ne siamo allora, quello che succede, noi, è vero quello che dice il dottor Greco, noi diciamo dei media abbiamo una responsabilità. Io ho scritto un editoriale un paio di settimane fa sul fatto che da 25 anni ininterrottamente c'è un calo statistico di tutti i reati, dall'omicidio ai furti. Sono stato sommerso di lettere di lettori, di cittadini normali che mi dicono che non ci credono. Mm. Non ci credono perché? Ce ne siamo occupati anche noi. Questo è il discorso della percezione. Sono calate le denunce, dico, perché la gente non si fida più. Allora, un po' è vero, un po' è vero, le denunce. Un po', lasciatemi dire, buoniste, anche se l'espressione è un po' abusata, contribuiscono a alimentare questa percezione di paura che non dovrebbe esserci, perché le persone vorrebbero che chi commette un reato sia punito. Sì. Oltre che rieducato, ma anche punito. Ecco. Io quello che mi domando e che volevo anche chiedere al Presidente è se non c'è un po' una sensazione, cioè se una sentenza come questa non alimenti l'idea che non ci sono confini, perché è una delle cose che poi si reiterano in tanti ambiti, cioè l'assenza di un confine preciso al di là del quale esiste una punizione severa, intransigente, perché questo senso di assenza di confini sta avendo notevoli ripercussioni nella società contemporanea. Le do perfettamente ragione, ecco perché dicevo che il passaggio della notizia è molto importante sul come. D'altra parte, dottoressa, noi giudichiamo sulle persone, i giudici non fanno politica giudiziaria, quindi ogni caso è quello alla nostra attenzione. Certo, noi non possiamo punire un ragazzo che può avere delle chance, perché se è stata data la mappa non è che si dà a tutti ovviamente, si dà a persone e a ragazzi che già dimostrano una capacità di recupero, non a delinquenti inveterati, no? È pacifico. Allora, io non posso esimermi dal concedere una chance a quel ragazzo, non ai ragazzi in genere, ma a quel ragazzo nell'idea che questa sarà un esempio negativo per gli altri. Toccherà a tutti noi soggetti, a me come comunicatori insieme con voi, a voi come comunicatori professionali, far passare il che non si fa, che non si fa. Cioè, lei dice non possiamo punirne uno per educarne 100, è questo il senso. No, poi vuol dire che il presidente del tribunale appunto cerca di far passare il messaggio che proprio dobbiamo dire con forza, non è che ammazzi un pensionato, ammazzi un anziano e non succede nulla, ecco, questo non è il messaggio che deve passare. Guardate, noi giudici abbiamo una grande difficoltà che è per noi una risalita, e cioè non ci viene accreditata una fiducia. Questo è il vero problema, no? I giudici tendenzialmente quando fanno un provvedimento è molto pensato, non è sottovalutato. Ma no, ma è chiaro che si applica anche la legge, questo quindi, strumento della messa alla prova no, è proprio... Intendo dire a volte anche queste critiche, questi timori, perché si ha una sfiducia nei confronti. Senta, ma almeno questo ragazzo si è pentito, ha mostrato... Di questo ragazzo, perché probabilmente alla base di questa sentenza ci sarà anche un po' come lui, io immagino. Voi avete creduto davvero che sia stata una bravata stupida? Cioè che lui non... Vi dico già da ora cosa fa, appunto. Innanzitutto è stato allontanato dal proprio contesto di famiglia, è stato inserito in una comunità, come vi dicevo, che è una comunità contenitiva, quindi è identico al carcere. La differenza che c'è è che dal carcere non si può scappare, dalla comunità si potrebbe scappare, ma lui non scappa. Sì, perché sennò viola quel patto e quindi... Esatto. Quindi, per dire, c'è già una adesione al progetto. Sì. Fra le altre cose ha scritto una lettera alla vedova, è vero che voi dite è una lettera, ma è un punto essenziale quello della cosiddetta mediazione dell'autore del reato nei confronti della vittima, che si concluderà poi, con la speranza che la vedova voglia farlo, con un incontro fra le due parti, in cui veramente ci sarà una comprensione. Dovrebbe esserci. Ma è chiaro. Presidente, ma la vedova era costernata davanti a questa sentenza? Certo, ha manifestato dissenso? Certo. Sì. Ora, non c'è dubbio che la società deve essere vicina anche alle vittime. Questo voi, diciamo, sono discussioni ampie, il Ministero della Giustizia si sta molto impegnando su quello che si chiama giustizia riparativa, sì, che è proprio questo, una vicinanza in base a una direttiva europea, della vicinanza del contesto sociale anche alla vittima va sostenuta. Che è un po' quella parte, Brindane, un po' quella parte che almeno la sensazione manca, l'altra manca, accusa, no? Che si... La società italiana si sta attrezzando per... Ancora non è arrivata. Certo, certo. Non so. Brindani, che considerazione finale possiamo fare? Che poi andiamo Io penso che sarà anche nostro compito di giornalisti verificare nei fatti se quello che dice il dottor Greco poi avrà un fondamento. Voglio dire, io penso che noi dovremmo seguire nei prossimi anni lo sviluppo di questa vicenda, perché sarà significativo capire se veramente questo ragazzo ha commesso, come dire, una tragica stupidata, oppure avrebbe dovuto essere punito diversamente. Seguiremo il caso, sì, se il dottor Greco ci aiuterà. Vedremo. Intanto c'è da dire, perché qualcuno ci chiede, ma magari sei collegato in ritardo, cosa ha commesso. Ricordiamo, questo ragazzo di 17 anni, dunque minorenne, ecco perché non l'abbiamo detto forse con sufficiente forza, fosse stato maggiorenne sarebbe stato completamente diverso. Chiaro. Ha spinto giù dalla scogliera due signori anziani, pensando di fare uno scherzo, pensando di fare una bravata, una cosa da bullo, come la vogliamo definire, non avendo valutato che in una scogliera non è proprio un bagnetto estivo, sì, ecco. Allora c'è Emanuela che ci chiama da Milano. Buongiorno. Intanto noi ringraziamo ovviamente Umberto Brindani, direttore di Oggi, e Riccardo Greco, che è presidente del Tribunale dei Minori di Bari. Emanuela, eccoci. Sì, buongiorno. Dunque, innanzitutto sono grata al dottor Greco che finalmente ha messo le carte in tavola e ha decretato una volta per tutte che in Italia i minorenni hanno licenza ad uccidere, perché questo è punto primo. Proprio il messaggio che non deve passare. Soprattutto che ci dobbiamo sperticare. Adesso tocca a me parlare, avete parlato voi, adesso tocca a me. Lei è la conduttrice, fatto, prego Manuela, conduca. Però penso di avere il diritto di parlare. Infatti glielo stiamo dando, però. Esatto, però questa è la mia sensazione, voi non potete sindacare sulle mie sensazioni. Allora sensazione sì, è un'altra cosa. La sensazione è che i minorenni hanno la licenza di uccidere, questa è la mia idea e voi non potete farci niente. Brava, ha ragione, non la metta in bocca al dottor Greco che ha detto il contrario. Concluda però Manuela, è la sua idea, non del dottor Greco, però? Il dottor Greco che aveva il potere di mettere questo minorenne in carcere, di fatto si è guardato bene nel farlo, quindi la decisione è sua, la responsabilità è sua, del dottor Greco, sì, e della magistratura. Infatti è qui a spiegarla. Perfetto, detto questo, se voi siete contenti di questa giustizia così, tra virgolette, civile, meglio per voi. Per me questa giustizia così civile fa schifo. E avete parlato della vittima e della sua famiglia soltanto nei 5 minuti finali, come se non esistessero. Complimenti. Non a voi naturalmente, Greco, ottimo lavoro. Grazie Emanuela, grazie. Si è svegliata molto tranquilla stamattina, sì. Più che altro parlare della vittima non so cosa significhi, nel senso non è che noi oggi possiamo, né è nostro compito, né credo vogliano le vittime metterci a raccontare la storia del signor Di Bello, metterci a parlare di lui. Qui si discute una sentenza e quanto questa sentenza abbia senso, Veronica, cosa sulla quale abbiamo manifestato scetticismo noi per primi. Allora, poi Veronica, la signora purtroppo la questione è questa, così. Sono 15 anni più o meno che faccio questa condizione e succede che nessuno ne parla di questi temi e la gente si indigna. Ne parli dando spazio anche alle critiche, il dottor Greco ha iniziato dicendo non mi sottraggo alle critiche, e la gente si indigna di più e ti dice vergogna. Cara Manuela, vada a fare un giro di tutte le radio e TV, ci faccia un report di quanti hanno dedicato un solo minuto a questa vicenda, poi ce lo fa sapere. E vediamo se il tasso di indignazione è aumentato o è sceso. E vedrà. Quindi continui a indignarsi con gioia qui su Radio 24. Almeno noi ne parliamo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi parliamo di altri temi. I funamboli tornano. State con noi. I funamboli. Che il ministro Fedele voleva fare il nonno sitter, il nuovo lavoro. Adesso ho capito perché vogliono legalizzare la cannabis. Vogliono dare una scusa alla ministra Fedeli per quello che dice. Non esageriamo, cari ascoltatori, però no, i nostri c'era ascoltatori. C'era un bellissimo messaggio, Alessandro, che chiedeva se si può fare il ricongiungimento familiare tra genitori e nonni, visto che i nonni devono andarli a prendere a scuola. Quindi chi ce li allontani, se si può avere un permesso speciale. Si potrebbe pensare, fare, no? Delle agevolazioni fiscali, delle cose del genere. Comunque, il tema è lì sotto traccia ed è ben presente e importante, cioè portare il dovere di portare, riaccompagnare e ritirare da parte di un adulto fino a 14 anni a scuola ai figli. È che quando il ministro Fedeli interviene dicendo ah, che bello fare i nonni, vanno i nonni, queste cose, ridendo, queste cose poi uno le paga, no, dal punto di vista della comunicazione, perché non si fa così. No, queste sono le gaffe, quelle che poi vengono pagate a oltranza, sì. No? Restano come le lacrime della Fornero. Sì, esatto. Capito? Esatto, le lacrime quelle, della Fornero. Quelle cose che apparentemente vogliono essere empatiche, avvicinare, e poi per il resto della vita invece no. Oddio, sono... forse le lacrime della Fornero un po' più, un po' più gravi, visto. Però che... le lacrime fanno il paio con piccini. Piccini. Vado a prendere i piccini. No, piccini l'ha detto, sì, piccini, sì. Questa frase. Perché è bello noi nonni andarli a prendere, perché sono piccini fa il paio con le lacrime. Va bene, dai. Allora, a proposito di comunicazione, c'è un libro in questo momento, e tra l'altro un libro scolastico, e quindi un sussidiario. Sussidiario, te lo ricordi il sussidiario? Non puoi ricordarlo ormai. No, in quinta elementare. È un'era geologica fa quando... Allora, c'è questo sussidiario di quinta elementare, e il titolo è Diventa protagonista, edito Il Capitello, sono tre autori, Berardi, Giorgi, Rubaudo, che è distribuito in tutte le scuole italiane e che è finito, tra l'altro, proprio anche con interesse del ministro Fedeli, sotto le critiche, perché si parla di immigrati e c'è un passaggio. Allora, il passaggio è questo: è aumentata la presenza di stranieri provenienti soprattutto dai paesi asiatici e Nord Africa. Molti vengono accolti in centri di assistenza per profughi e sono clandestini. E ancora, nelle nostre città gli immigrati vivono spesso in condizioni precarie, perciò la loro integrazione è difficile. E non per trovano motivi... un lavoro, seppure umile e pesante, né case dignitose, perciò la loro integrazione è difficile. Ecco. Perciò la loro integrazione è difficile, per motivi economici e sociali i residenti talvolta li considerano una minaccia per il proprio benessere e manifestano intolleranza nei loro confronti. Allora, il dramma nasce attorno al fatto che tutti quanti vengono definiti clandestini, quindi senza... Ma nessuna... non è vero! Adesso mi arrabbio. No. Ti arrabbi, diamo allora, la notizia attorno a cosa nasce la polemica, dopo ti fai venire subito allora, diamo la parola all'ospite intanto. Allora. Io devo dire che di quello che ho letto non c'è neanche una virgola che trovo stonata, neanche un punto e virgola. Però, il senso è che nella parola clandestini vengono racchiusi tutti quanti, sia coloro che sono indebitamente in un paese, sia coloro che ci sono avendone diritto, essendo fuggiti da guerre e persecuzioni. Ripeto, e l'italiano è chiaro, molti vengono accolti in centri di assistenza per profughi, è vero? Sì. E molti sono clandestini. Il 40% delle domande che vengono fatte sono accolte, il 60% no. Quindi molti, il 60% no, sono non clandestini. Non è così, è molti, ovvero coloro che sono accolti nei centri di assistenza per profughi sono clandestini. Perché la domanda che fanno nel 60% dei casi respinta, quindi viene fatta un lavoro respinta, approssimativo su un libro di testo per bambini delle elementari, con i quali non si può avere un atteggiamento approssimativo, già che si sta studiando e si parte proprio dalle fondamenta del rispetto allora, all'interno l'italiano di una società. È una parola, è una lingua chiara, molti, molto chiara, molti, sì. Il 60% respinta la domanda, quindi molti, 60 su 100 risultano poi clandestini. Comunque, Riccardo Francolevi, buongiorno, non l'abbiamo chiamata per litigare con noi, presidente dell'Associazione Italiana Editori. Non si preoccupi, noi litighiamo tra di noi. È stato investito di questo caso, allora questo libro fa scandalo? Ma guardi, partiamo da un assunto proprio, se vuole, formale. Ministra Fedeli ha detto che avrebbe interpellato l'AIE, questo mi sembra più che corretto, anche perché l'Associazione degli Editori ha un suo codice di autoregolamentazione in cui tutti gli editori si impegnano a tutta una serie di doveri nel momento in cui producono testi scolastici. Il punto però è che i testi scolastici servono per dare strumenti ai ragazzi, agli studenti, ai giovani per interpretare la realtà. Questo è il senso della scuola, questo è il senso dell'editoria scolastica, questo è il senso dei libri. stiamo parlando naturalmente, a proposito di immigrazione, di un fenomeno tanto complesso quanto spinoso da affrontare, difficile da governare, per cui è abbastanza normale che su un tema come quello dell'immigrazione si muovano anche sentimenti e passioni forti. Il testo che voi avete letto, e potrei anche leggervene un altro che ha dato adito non molto tempo fa a rimostranze, lamentele con una critica, diciamo, di politica opposta, di provenienza politica opposta, se posso leggere i due righe dell'altro. Prego. Si diceva l'Italia è ormai terra di immigrazione, gli immigrati sono una presenza indispensabile soprattutto in alcuni settori lavorativi come l'edilizia, il lavoro domestico, l'assistenza ai bambini e agli anziani. La convivenza però tra italiani e stranieri non è sempre facile e non sempre la legge italiana favorisce l'integrazione. Che ma questo è lo, stesso, è lo stesso libro, Presidente? No, è un altro testo. Che però aveva suscitato polemiche da destra invece in quel caso. Esattamente, voglio dire, il tema dell'immigrazione è per definizione un tema difficile da affrontare, ma è anche il posto, la scuola, nella quale l'integrazione trova i propri primi passi. Per cui immaginare che ai ragazzi non venga offerta, diciamo così, un'immagine della realtà, che è una realtà complessa, difficile, è sbagliato. Anche perché, scusi Presidente, in un testo o nell'altro non mi sembra che ci siano cose sconvolgenti. Poi un testo uno non lo legge in maniera pedissequa, cioè viene spiegato dagli insegnanti, discusso, fornisce degli elementi e poi si discute. Ma il suo parere è che questo testo vada bene, o cioè il parere che ha dato alla fine è stato un parere favorevole, oppure ritiene che il testo... Non abbiamo nemmeno dovuto dare un parere, anche perché formalmente, diciamo, ancora non siamo stati interpellati. Ma mi pare del tutto evidente, se vuole si può stare a disquisire sul molti o parecchi o alcuni, la maggioranza, non la maggioranza, ma nel complesso, voglio dire, questo testo come l'altro che vi ho letto sono oneste descrizioni di una realtà difficile che viene posta di fronte ai nostri ragazzi, ovviamente in forma sintetica, perché stiamo parlando di sussidiari per le elementari. Ma, e poi andranno discussi in classe, poi andranno discussi della realtà che loro poi conoscono. Cioè, come io e Veronica, quindi abbiamo discusso, poi con gli insegnanti e tra gli allievi se ne parla. Si fa un dibattito. No, perché un altro dei passaggi incriminati, Presidente. La scuola deve servire a offrire gli strumenti per una comprensione aperta del mondo, della realtà. Certo, ma infatti è fondamentale che se ne parli. Il discorso che credo qui venisse contestato, no? Per esempio Giusy Nicolini, che fu sindaco di Lampedusa, diceva che sono libri che generano intolleranza, perché uno dei passaggi incriminati è il fatto che, cioè, si dice a un certo punto, i residenti talvolta li considerano una minaccia per il proprio benessere e manifestano intolleranza nei loro confronti. È successo, basta aprire i giornali. Il senso è raccontarlo in un sussidiario in questi termini. Racconta, è come dire, una sorta di apologia di chi manifesta degli atteggiamenti di insofferenza, di idiosincrasia nei confronti dello straniero? Fare un commento. Quando si dice che la loro integrazione è difficile e i residenti talvolta li considerano una minaccia per il proprio benessere e manifestano intolleranza nei loro confronti. Perché non è vero, ci sono manifestazioni tutti i giorni. Ovviamente, diciamo, stiamo descrivendo qui una realtà della quale purtroppo abbiamo tante manifestazioni e tante notizie giorno dopo giorno. Certo, ma il punto fronte... qui è che c'è un'apologia di questo atteggiamento, come a dire. È una descrizione della realtà dell'Italia. Lasciatemi dire una cosa. Sì. Di fronte a parole di questo genere, credo che si possano, chiunque potrebbe trarre conclusioni esattamente opposte. Alcuni per dire che l'intolleranza è condannabile, altri per dire che la minaccia è reale. Voglio dire, stiamo parlando di un fenomeno complesso. Non si può tirare da una parte o dall'altra in modo grossolano. E infatti, come al solito, invece la politica ha fatto così. Salvini ha detto comprerò migliaia di copie. Si figuri se non capisco il sindaco di Lampedusa, che è in prima fila a dover affrontare. E a Lampedusa l'hanno fatto con una generosità che è andata, voglio dire, a fare notizie in tutto il mondo. Si figuri se non capiamo la difficoltà che un amministratore ha nel governare queste cose. Ma proprio un amministratore è aiutato da un'opinione pubblica che fin dai bambini cresca comprendendo la complessità delle cose. Questo serve la scuola. Questo sì. E comunque, questo servono i testi. Noi la ringraziamo, Riccardo Franco Levi, presidente, ripeto, dell'Associazione Italiana Editori. Vedremo se poi ci saranno degli sviluppi quando verrete, come dire, formalmente coinvolti. Ma insomma, già un parere, un preparere ce l'ha dato qui in onda ai funamboli. Doveva dare al traffico. Semplificatore pressappochista. Ce l'hai con Manera, forse? Non lo so. Vabbè, no, non è ancora arrivato, quindi purtroppo no. I funamboli. Buongiorno, oggi i nonni sono ridiventati giovanotti, escono il sabato sera, si divertono, divorziano e non ci danno una mano a noi genitori trentenni che invece il sabato sera stiamo a casa con i figli a guardare i cartoni animati. Va bene, eccolo qua il nonno Manera. Nonno Manera, non sono ancora, buongiorno, non sono ancora nonno. Però. Beh, sei lontano, quanti anni ha il tuo bimbo? Pochi. 8 anni mio figlio. Ma chi lo sa, adesso 12-13 anni può capitare, insomma. Cioè li accompagni con la manina nel frattempo loro. È chiaro, no, ne accompagni due, quindi porti tuo figlio e nel frattempo porti anche il nipotino, fai un giro unico. Allora, oggi sono di buon umore. Perché ieri sera ho ricevuto Signori, è venerdì 27 ottobre, segnatela sul calendario. Perché sono di buon umore? Perché ieri sera ho ricevuto un 2 di picche, ma l'ho ricevuto in modo talmente elegante che mi ha perfino fatto piacere. Perché... Ti prego, raccontaci tutto subito. Ho chiesto a questa ragazza di accompagnarla a casa e lei mi ha detto non posso perché non troverei la strada, perché mi perderei nei tuoi occhi. Più di così cosa puoi chiedere a una donna? Allora, nulla. Taxi, sera, no. Grazie. Ma domani vedrai che la potrai accompagnare. È difficile perché è fidanzata. Ad ogni modo è un 2 di picche che mi è piaciuto veramente. Insomma, la ringrazio di questo diniego. Ah. Bene. Allora, oggi vorrei invece parlare di una cosa diversa. Peter Bescapè, che dell'adolescenza. Che è il periodo della vita in cui crescono i peli, spuntano i brufoli e crolla le certezze dell'infanzia. Si comincia a soffrire per amore, si arriva al primo bacio, che per la prima volta vedi in modo diverso da quando eri bambino. Quando eri bambino immaginavi di dare un bacio a una bambina o viceversa, la reazione era sempre «che schifo!». Quando sei adolescente invece il bacio diventa la porta d'accesso all'amore. Io ricordo il mio primo bacio con Paola, con le labbra attaccate ma senza fare nulla, con la lingua immobile, perché non sapevamo come fare, che oggettivamente era anche noioso, immobili, come due camaleonti che si mimetizzano con la vita adulta. Baci lunghissimi di 3/4 d'ora, pianti lunghissimi da adolescente di 3/4 d'ora, stai davanti allo specchio per 3/4 d'ora che anche lo specchio a un certo punto si stufa e si appanna. Ogni cosa la fai minimo per 3/4 d'ora, tranne parlare coi genitori, perché coi genitori parli solo per litigare, per decidere a che ora devi tornare a casa quando esci con gli amici di sera. Coi genitori urli per tutto, con quella voce a metà tra bambino e adulto, perché vuoi fare tardi di notte, vuoi uscire da solo. Coi genitori sfiancati, distrutti, che aspettano i figli adolescenti fuori dalla discoteca o fuori dal concerto, che vanno a prendere i figli e che però non possono farsi vedere dagli amici del figlio, perché altrimenti il figlio si vergogna e in quel momento il genitore sta da cani. Vedi questi genitori che mettono la sveglia all'1 di notte e vanno a prendere i figli al concerto alle 2 col pigiama, con la piega del cuscino sulla faccia. Anche i genitori vittime dell'esplosione ormonale dei figli. Quando il figlio adolescente è in casa non comandano i genitori, neanche i figli, comandano gli ormoni. In casa tu non lo vedi, ma c'è un grande ormone che detta tempi e modi della vita familiare. E i genitori si preoccupano perché questo ormone è individualista, egoista, non considera le esigenze altrui, va per la sua strada e basta. In alcune lingue del mondo c'è un proverbio che dice essere egoisti come un ormone. Da adolescente per la prima volta nella vita se hai un problema non vai dai genitori per cercare di risolverlo. Ti allontani dai genitori, coi tuoi genitori stai in silenzio. e i genitori si preoccupano perché in quel periodo possono pensare qualsiasi cosa del figlio perché il figlio non parla. E allora il genitore può pensare che il figlio si droghi, abbia una vita dissoluta, sia diventato membro di qualche setta segreta, la setta segreta dell'ormone maligno. E invece no, è semplicemente un figlio o una figlia che sta diventando grande, che sta entrando nella vita, quella vera, con tutte le difficoltà ma con le cose belle della vita vera, del diventare grandi. E l'adolescente sente la vita che gli cresce dentro, e anche i genitori che pure litigano con lui o con lei, questa cosa la capiscono. Tutte cose però che con le caratteristiche diverse dei suoi tempi Anna Frank non ha potuto fare. È stata costretta a passare una parte della sua adolescenza nascosta, a vivere la sua vita di adolescente in un diario prima di essere distrutta e poi ammazzata dai nazisti. Quelli che le hanno messo addosso la maglia di una squadra di calcio le hanno rubato la vita un'altra volta, cancellando la sua sofferenza. Anna Frank non si meritava tutto questo. Noi invece oggi meriteremo tifosi meno cretini, o almeno che non riducano una vita, una sofferenza, una morte a una semplice immagine da sfruttare in una curva senza memoria. Il nostro Leonardo Manera, non so se vi rendete conto, siamo ad alti livelli qui, ad altissimi livelli. Vedi, basta livelli. Dirgli che ci si perde nei suoi occhi e ti è, guardalo. Vedi? E lui vedi cosa ti crea, nella notte. Vedi. Allora, c'è Virginia che ci chiama da Roma, ce la facciamo prima del giornale radio, Virginia? Buongiorno, brava Veronica, brava, bravo Milan, bravo Manera, però io devo parlare Peter Bescabè, no? Peter Bescabè. Stamattina... Sì, bravo pure Peter Bescabè. Bravo, è bravo, è bravo, è bravo, è bravo. Dica Virginia. Io sono una nonna, no? Sì. Però sì, io già da quando mia nipotina aveva 14 anni, io non mi potevo far vedere, cioè se io oggi, che ne ha 14, l'andassi a prendere... E mi arriverebbero i libri in testa proprio allora, perché comunque a 14 si può, da 14 in poi è libera, a meno male, fino a 13 perché da 12 io dovevo andare al bar a 300 metri perché non mi doveva vedere, certo. E da una parte per esempio io camminavo sul marciapiede di destra, sì, lei su quello di sinistra, se io gli dovevo dire una cosa lei neanche mi rispondeva. Virginia, quindi Virginia deve farsi vedere dai professori ma lontano da sua nipote, certo. Cioè, quella sì che è un'operazione che funambolica, che brutta cosa quando arriva la vergogna per i genitori e i nonni. Va bene, il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I funamboli. Devo dire alla ministra che mia nipote ha 14 anni, ha la macchinetta ed è lei che va a prendere la nonna. Ciao, ciao. Effettivamente, però fino a 14 anni, a 14 anni è libera di andare a scuola senza accompagnamento, È fino a 14 anni. Cos'è, la prima superiore? Sì. 14 anni. 14 anni, il primo anno, sì, di liceo. Terza media, sì, o prima superiore. Beh, sì. Prima superiore, sì. Dai. Si decide che per le scuole medie non sono ancora autosufficienti. Esatto, esatto. E quindi vanno portati, vabbè, i piccini. Piccini. Allora, sono le 19 minuti, c'è Claudio da Genova. Claudio, buongiorno, che ci vuole dire? Buongiorno a tutti. Niente, riguardo proprio a questo argomento, mi è venuta in mente una cosa. Che oltre alle categorie di nonni che avete nominato voi, e cioè quelli che purtroppo non ci sono più o quelli che purtroppo abitano distanti, ce ne sono altre due categorie. E sono la prima, i nonni che ti dicono, no guarda io non ne ho voglia, ai tuoi figli certo, pensaci tu, perché io a te, sono figlio tanti, mio, ci ho pensato io. E sono tanti. Certo, e ci sono. Fidatevi che ci sono. E poi ce n'è un'altra, e qui mi chiamo anche in causa la ministra Fornero che avete nominato prima, che magari a 63, 65, 66 anni lavorano ancora, è tempo per andare a prendere i nipoti. Non ce l'hanno purtroppo, ma vorrebbero avercelo. Figli e grulli chi li ha fatti, li trastulli? Esatto, ma... anche perché io ho fatto il conto dalla serva, mia figlia ha 14 anni adesso, e vabbè adesso fa le superiori, non c'è più problema. Ma quando tra magari a 32 anni avrà un figlio, io che ne avrò 62-63 lavorerò ancora. Sarà anni luce dall'andare in pensione, poi mano a mano che aumenta, capito, l'aspettativa di vita, prima degli 80 lei non ci va in pensione, Claudio. 80. Comunque Claudio ci ha dato altre due categorie di pensionati, giustamente. No, però è vero, tantissimi messaggi che leggevo sono di nonni che dicono abbiate pazienza, ma io lavoro ancora, ho 60 anni, oppure non e lavoro. Oppure non ho voglia, vado in l'ipotesi palestra. L'ipotesi non c'ho voglia va assolutamente bisogna contemplata. Bisogna che i nonni si facciano tutti assumere come bidelli, così sono già lì e accompagnano un momento i nipoti a casa. Dai. Questa è un'ipotesi, ma secondo me se si dà un piccolo sussidio ai nonni per andare a prendere i nipoti, questa è un'idea. Dobbiamo andare al funambolo del giorno alle 10:11 minuti. Yeah, Lizzie. Yeah. And Lizzie, with Jamaica, doing mountain, shining down the river. Nome: Gianluca. Cognome: Segato. Età: 24 anni. Fondatore dell'app Uniware. È stato premiato a Berlino come imprenditore dell'anno per la creatività digitale. Eccolo qua, 24 anni, Gianluca Segato, buongiorno. Buongiorno a voi. Fondatore, creatore di questa startup Uniware, legata al mondo universitario, per pianificare la carriera accademica. Come funziona? Sì, esatto. Ma è un'applicazione che consente agli studenti universitari di gestire tutta la loro carriera accademica dal cellulare. Quindi hanno accesso a tutti i loro dati, i voti, gli esami, le scadenze, quando pagare la tassa, quando andare a fare l'orale e tutta una serie di altre funzionalità che li aiutano a, insomma, affrontare la complessità del mondo universitario. Ma gli esami li vanno a fare oppure anche quelli col telefonino? Questo non lo posso dire, però. No, come? No, no, chiedeva se li fate voi al posto loro, perché in quel caso, secondo me, l'app va fortissima. Potrebbe essere una delle prossime funzionalità. Lo step successivo. No. Cioè, non è che l'app studia per voi, cari studenti, no. No, gestire tutta la questione, effettivamente bisogna organizzarsi bene all'università. È un piano scolastico, una specie di piano in cui voi gli organizzate più o meno tutto, gli fate i memo, report, organizzate le giornate, cioè. Però è valso questo. Non arriviamo a essere la segretaria, questo no. Dire questo, infatti. Però hai vinto un premio importante, insomma, italiano dell'anno, così l'hanno definito sui giornali a Berlino. Un premio inaspettato. Che tipo di premio è? È organizzato dal Comitato di Italiani all'Estero a Berlino e dall'Ambasciata Italiana in Germania, e sostanzialmente mira a promuovere una persona, un italiano e un'italiana, quindi è duplice il premio, che in qualche modo si sono distinti in Germania in un dato anno. È bello, insomma, qualcosa. No, ma infatti da super. Che tipo di finanziamenti ci sono per questa startup? Perché qualcuno l'ha valutata a 500.000 euro, è vero? Sì, un anno fa, adesso il valore si è triplicato. Un milione e mezzo di euro. 120.000 studenti italiani, 55 atenei, giusto? Corretto, in realtà adesso 130.000 e 65 atenei, perché vedi, siamo in espansione. Un milione e mezzo di euro, cioè, però che effetto fa se sapere di aver creato una cosa già valutata un milione e mezzo di euro a 24 anni, Gianluca? È una di quelle cose che è difficile da processare, per cui in realtà non ci penso. Cioè, la domanda è: ti senti un po' Mick Jagger quando canta, capito? No, non ci penso. Continuo ad andare avanti. Tanto il livello di problemi è talmente elevato che se mi metto a pensare, oddio, una startup da un milione e mezzo, vabbè, allora a quel punto. Non è per fare il bastian contrario, ma anch'io ho fatto degli esami all'università. Non mi ricordo di aver avuto tante cose da organizzare. Secondo lei, perché gli studenti adesso hanno bisogno di questa applicazione per gestire la vita quotidiana? Io mi ricordo che avevo il mio libretto con gli esami, le lezioni. Non c'è più il libretto. Ah, non c'è più il libretto. Aveva il calendario con i cerchini sui giorni. In realtà, cioè, nel senso, lo studente del superiore è abituato che ha le interrogazioni tutti i giorni, ha le sue cosette, tutto sereno, arriva il primo giorno di università e di colpo, bang, tutto quanto autonomo deve diventare grande di colpo, e a quel punto si sente un attimo disorientato. Effettivamente, però, quello che dice Leonardo Manera, cioè l'abbiamo passato tutti e tutti abbiamo avuto la nostra autonomia senza l'aiuto tecnologico, però è bello perché intercetta invece una generazione che è cambiata evidentemente sotto questo punto di vista. Voglio dire, 30 anni fa si andava comunque in macchina senza Google Maps, giusto? Le cartine, certo. Si faceva, non era un problema muoversi, però adesso c'è Google Maps, metto l'indirizzo e fine. È chiaro che è a metà tra un'opportunità e una necessità, però insomma. Straordinario. Gianluca Segato con grande eleganza ci ha dato di due vecchi babbioni. No, no, no, ma è questo. Ve la siete anche cercata, sì, quell'altro infatti... è arrivato col libretto. Scusa, io non dovevo organizzare molto. Capito, ci ha proiettato in una generazione che noi misconosciamo. Tra l'altro io ce l'ho ancora il libretto ed è un ricordo anche piacevole. Bello. Sì, sì. Quella cosa là è stata completamente tagliata. Quella cosa là, capisci? Quel retaggio vetusto, capito, del paleolitico, ce la siamo lasciata alle spalle. Ma invece Gianluca, ho letto che tu dici: se fossi rimasto in Italia la mia startup sarebbe rimasta un progetto amatoriale e provinciale. Abbastanza vero, sì. Perché? Che cosa pensi tu? Che l'Italia non è stata capace di valorizzare, che non si prende il rischio di investire su cose nuove? Bah, diciamo che ho avuto modo di affrontare il tema più di qualche volta ed è sempre difficile, perché spesso diventa una conversazione su o è bianco o è nero, giusto? Perché o l'Italia fa schifissimo, il resto del mondo è una sorta di terra promessa, o viceversa, allora bisogna difendere a spada tratta l'Italia. Ma che poi non è così, mi risulta che un po' di finanziatori italiani Ma infatti è esattamente quello il punto, per cui ci sono le gradazioni di grigio. La storia è sostanzialmente che noi siamo partiti in Italia, abbiamo lavorato in Italia, abbiamo fatto un bel percorso in Italia, poi a un certo punto ci siamo trovati a scontrarci contro il fatto che avevamo talmente tanti utenti che il progetto era diventato insostenibile da reggere solo con le nostre forze. Abbiamo cominciato a guardarci intorno, a vedere se c'erano acceleratori, finanziamenti, cose di questo tipo, e abbiamo trovato il deserto. Okay. Quindi invece, a quel punto, a Berlino, A quel punto abbiamo detto: vabbè, sai che c'è, guardiamo l'Europa. Abbiamo ricevuto proposte da mezza Europa, Barcellona, Amsterdam, Eindhoven, Parigi, Berlino. A quel punto abbiamo detto: vabbè, vada per Berlino. Vabbè, insomma, Gianluca Segato, noi. Ti ringraziamo tanto anche perché c'è un po' svecchiato a me Leonardo Manera, cioè. Adesso più vado più a prendere young. Il mio libretto, a prendere il libretto. Lui è affezionato a queste cose, fa fatica veramente, almeno uno Leonardo si deve applicare, deve cercare siete veramente analogici e vintage. Comunque, fondatore dell'app Uniware Gianluca Segato, grazie per essere stato con noi, italiano dell'anno lì a Berlino. Dopo il traffico racconteremo, cara Veronica, storie legate ancora un po' alla vicenda del referendum, l'autonomia. Molto molto interessante. Siamo autonomi, capisci? Battista. Ma è stato solo di passaggio. Mi sa che era un messaggio WhatsApp che ci ha mandato. Non lo so. Tra poco. I funamboli. Allora, ieri sulla stampa è uscita questa notizia, un reportage di Andrea Rossi, inviato in provincia di Vicenza, Mussolente, a raccontare la storia di un imprenditore che è qui con noi, è Francesco Biasion, che è presidente di un gruppo Bifrangi, leader mondiale, uno stampaggio a caldo dell'acciaio. Buongiorno Biasion. Buongiorno a tutti. Racconta come, intanto racconta, ed è vero che ha votato sì, è andato a votare al referendum, ha votato sì in Veneto, sì, giusto? Sì, è vero. Però dice: guardate che non cambierà nulla, non è tanto quello il problema dell'autonomia che magari c'è, ma qual è il vero problema visto dal suo punto di vista, Biasion? Il problema è che raccontano tante belle cose, tanto per farsi vedere che fanno qualcosa, invece non fanno niente. Questo tempo che hanno perso per questo referendum, se lo dedicavano per fare magari la superstrada, l'autostrada della Pedemontana del Veneto, che è una vergogna, che fanno scavi, togliono, fanno buchi e ribuchi un po' qua, un po' là e non fanno, non finiscono mai niente e buttano via questi capitali a costi esorbitanti. Abbiamo visto anche il Mosele, abbiamo visto altre opere. Ci sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio che si fossero occupati di queste cose invece di un referendum che non conta nulla. Ma allora perché c'è andato a votare? Sono andato a votare perché se viene riconosciuto il Veneto che merita qualcosa in più e che ci sia qualche attenzione in più, guardiamo adesso come avete stato scritto in quel giornale: in Sardegna voglio questo, e tutte le regioni autonome voglio quelle. E chi pagherà un domani quelli poveracci che sarebbe bene che si muovessero anche essere autonomo, sì, anche la, loro. La cosa interessante, sì, è che lei racconta di avere commesse richieste da tutto il mondo, potrebbe dare da lavorare a decine e decine di famiglie, forse centinaia di famiglie. Perché gli affari ci sono, ma è tutto bloccato da burocrazia, tasse troppo alte, leggi stringenti. No, le tasse, io non mi lamento delle tasse. Non si lamenta. Lei si lamenta della burocrazia. È la burocrazia, l'abuso di potere che esiste, che un titolare è solo trattato come un delinquente. Sono trattati bene i rom, i zingari, possono sporcare le strade, possono fare baracche dappertutto. Guardiamo l'esempio del terremoto che abbiamo avuto giù, che quella poveretta signora da 95 anni si era fatta vicino al suo orto, vicino ai suoi gallini, sì, conigli. Sì, sì. Abbiamo avuto, ne abbiamo parlato. Che era una cosa bellissima. L'hanno tirata via, portata in un container. Mm-hmm. Ma queste cose, a chi dava fastidio questo problema? L'ho fatto con i suoi soldi, il container, l'abbiamo pagato tutti noi. E invece delle zone, della zona dove abita lei in Veneto, qual è la situazione che trova peggiore, più deplorevole, quella che proprio dà fastidio? Beh, dà fastidio che queste amministrazioni locali credono di comandare in casa di altri. E c'è un fastidio che c'è una delinquenza anche qui dilagante, che vengono persone picchiate, rubate, e non viene condannato nessuno. Un delinquente viene rilasciato immediatamente, una persona onesta non è sempre così. Lei che cosa vorrebbe? Per esempio, la richiesta che ha fatto Zai all'inizio, l'ipotesi di una regione a statuto speciale, le piacerebbe? Ma cosa serve? Ah, non lo so, me lo dica lei. Beh, lo statuto speciale Zaya, in Trentino si tengono il 90% delle tasse, per esempio. Lasciamo stare. Se Zaya ha lasciato in santa pace certe aziende e si occupasse di mettere a posto i zingari, le strade, ancora, le immondizie, le sporcherie e quant'altro, allora sarebbe qualcosa di Ma buono. Perché lei va in Austria? È vero che porta tutto in Austria? O tutto, o delocalizza? Cosa fa? Beh, diciamo che in Italia non c'è più questo sviluppo, scappiamo tutti imprenditori. Non parlo per me, io non ho problemi, mi arrangio, mi difendo, ormai io sono abituato, pago centinaia e migliaia di euro all'anno a avvocati per difendermi. Purtroppo è una perdita enorme, ma d'altra parte sono costretto di fare queste cose. Ma non sono da solo, siamo tutti imprenditori messi in queste condizioni. Sì. E io sono da Cavia, io voglio esternare questi problemi. Non per me, perché ormai dice, ma per gli altri in altre situazioni. Però ecco, rimanga con noi Biasion. Aspettate che dobbiamo salutare anche un sindaco. Questa volta ci spostiamo in Lombardia. Siamo a Casorate Sempione, siamo in provincia di Varese. Il sindaco è Dimitri Cassani. Buongiorno. Buongiorno. Che è stato un po', come dire, crocifisso. Sindaco, crocifisso. Ha fatto la lista di proscrizione. No. Buoni versus cattivi. Eccolo lì. No, lui dice, ha fatto una battuta, e cioè si potrà mappare, grazie alle ricevute, chi ha effettivamente votato al referendum, così tanto per rispondere a chi verrà un giorno a chiedere aiuto magari in comune. Mica vuole distinguere, sindaco, tra chi ha votato, no? Assolutamente no, infatti la cosa paradossale di tutto questo eco mediatico, che è finito addirittura con minacce di rivolgersi al ministro Minniti da parte di un onorevole, piuttosto che sulla Repubblica un articolo dove si scrive queste cose, non è tanto la frase ma l'interpretazione che è stata data, che è molto fuorviante, e era stata precisata esattamente 10 minuti dopo, cioè, che l'avevo scritta. Cioè, ha fatto una battuta lei. Allora, la frase incriminata è: grazie alle ricevute si potrà mappare chi ha effettivamente votato, così tanto per rispondere a chi già da questa mattina verrà a chiedere aiuto alle istituzioni. Giusto? Sì, esattamente. Che cos'è? Una battuta? No, era una. Visto che si è votato con le ricevute qui da noi in Lombardia, si è votato col tablet, non c'erano le schede elettorali, quindi c'è stata fatta una ricevuta, e quindi ho citato le ricevute, Ma la stessa identica cosa che come citare i registri per sindaco. Sì, se cita però la ricevuta, che vuol dire verrà a chiedere aiuto alle istituzioni? La frase è un po' infelice, dai, cioè, come a dire chi ha votato no adesso non venisse qui a lamentarsi e a chiedere a me di dargli una mano. No, chi non ha votato. Difatti era per stigmatizzare, io poi l'ho precisato, ma subito dopo, per quello che dico, che è stata una macchinazione ridicola. Perché è stato fatto lo screenshot solo di quella frase inserita in un contesto più ampio. Sì, però sindaco, quella frase vuol dire chi ha votato no non venga a chi non ha votato non venga a chiedermi un aiuto in comune. O meglio, che voleva dire? Quando ce lo viene spieghi? A chiedere un aiuto in comune, io so che non ha votato e quindi se non ha votato. So che se la partecipazione è stata il 40%, poi in un comune, il mio comune è di 5.700 abitanti, quindi sono 5 sezioni e sappiamo. Dove si è votato e dove no. Non c'è. Ma chi se ne frega? Cambia? Cioè, tra i suoi cittadini, no? Cosa cambia tra chi ha votato, tra chi non ha votato e chi ha votato? Lei resta comunque il sindaco, certo. Con tutti è lo stesso trattamento. Che è quello, esattamente quello che ho scritto, che invece è stato bypassata alla grande. Però quella frase lì allora non andava. Ho capito, detto, uno scrive una frase, poi la precisa tre mesi dopo, perché non era quello il senso. È stato scritto che nessuno pensa di negare aiuto in base a chi ha votato no. Però allora ci spieghi il senso, mi scusi, io non l'ho capito, ce lo spieghi bene adesso. Il senso era quello di tutti i giorni abbiamo persone che vengono o a chiedere aiuto o perché non vengono fatte determinate opere di manutenzione anche ordinaria, chiudere le buche sulle strade molto banalmente. E noi diciamo purtroppo le risorse sono limitate, i trasferimenti dallo Stato centrale sono sempre meno. E noi quello che possiamo fare è questo. Questa opportunità che ci veniva data era una grande opportunità per chiedere più risorse, più autonomia, più competenze, più risorse. Quindi mi è sembrato un paradosso non recarsi nemmeno a esprimere proprio il proprio diritto dovere, indipendentemente di chi e poi lamentarsi. Quindi in realtà non è che lei è stato frainteso, lei dice la mia era una provocazione, cioè dicevo se poi vi lamentate almeno potevate andare a votare, questo è esattamente il senso della frase, era quello, ma ribadisco è stato detto a chiare lettere subito sotto. Sì. Il problema è che è stato poi invece. Ma lei sa che le smentite non hanno mai spazio, quindi generalmente è così. No, ma l'ha detto nella stessa. I chiarimenti non hanno mai spazio, è inutile farli. Ce l'ha Manera, ce l'ha con noi giornalisti. Non deve, come al solito, sindaco risponderle in maniera seria. Quando è Manera, lei può dire quello che pensa. No, nel senso, è chiaro che è un po' infelice la frase, però adesso il sindaco ci sta a spiegare, a dire: guardate, c'è questa opportunità dell'autonomia. Se non siete andati a votare, poi non vi lamentate in comune a dire che non ci sono abbastanza risorse. Magari sindaco lei voleva dire anche una frase un po' ad effetto, no? Che è la cosa classica che succede, poi dopo uno capisce che invece quella frase viene presa molto sul serio e smentisce, rettifica. Questo sì. Oltretutto era in risposta, non era un post, anche questa è stata era una risposta a un iscritto al gruppo che diceva che il referendum non serve a nulla. Nel contesto della risposta, si è innervosito e ha detto adesso dite che non serve a nulla, vediamo poi in comune quando venite la mattina comunque. E vi dico guardate non ci sono soldi per chiudere le buche sulle strade perché siamo conciati così, quindi figurarsi in ogni caso sindaco ma ci ha chiarito questa cosa. Io vorrei tornare per un attimo da Biasion, ripeto, gruppo Bifrangi, no? Siamo questo industriale in provincia di Vicenza, dove Biasion ci sono le risposte che in Italia non avete, in Austria mi sembra di capire, e poi in tutti gli altri paesi che ci sono, sia negli Stati Uniti, che è Houston la città, che sia in Inghilterra, Sheffield e Lincoln, che abbiamo aziende in queste due grandi città, e sia anche in Austria, dove che siamo vicino a Klagenfurt, lì non esiste nessun problema burocratico per costruire quant'altro. Le risposte ti dicono immediatamente se puoi fare una cosa o non la puoi fare. Non puoi perdere anni di tempo per avere un sì o un no se hai la possibilità di fare un ampliamento. No, ricordiamo tra l'altro il suo gruppo sono oltre 1.000 dipendenti, 250 milioni di fatturato, quindi non proprio una piccola impresa, ecco. Appunto. Una grande impresa che però non e ha bisogno di risposte. Le imprese, ma che sia grande o piccola, non ha importanza. L'importante è che quando uno chiede una cosa deve avere intanto un piano regolatore chiaro, che non deve essere fatto per qualche persona perché è più bello o più brutto e uno può fare o non può fare, perché secondo delle simpatie possono dare il sì o il no di fare le cose o fare Biasion, ce l'abbiamo ancora una briciola di fiducia nell'Italia o gettiamo la spugna completamente? Cosa dice? Ma io dico che ormai la spugna è già stata buttata, non c'è più possibilità di ritorno perché il sistema si aggrava giorno per giorno. Ecco. Biasion, ma un'ultima domanda gliela devo fare io, ma lei a prendere i nipotini a scuola ci va o no? No, mando le mamme o le mamme. La compagna, io non ho tempo di andare a prendere i nipotini. Pensavo che dicesse mando gli zingari. Perché... Ecco un altro nonno che non ha tempo. Nonno che non ha tempo perché deve lavorare, vabbè, ma il tempo un po' del giorno. Vi ringraziamo, Francesco Biasione, il sindaco Dimitri Cassani, sindaco di Casurate, Sempione, Varese, Battista, tanto ha votato. Sono anche... d'accordo anche con Biasione, non c'è più via di scampo per Italia, capisci Mina? No, e allora che è andato a votare a fare Battista? Abbia pazienza. Ma perché ormai mi trovavo in quel posto, no, anche per conoscere, per fare quattro chiacchiere, ma in non quel posto ce la potrei, vabbè, va. Sì, va, va, non va, mi fate va. Dire va. No, va bene, da non dire, andiamo alla borsa, no. Va. I funamboli. A Claudio, vedi che quando arriva tu la pensione, vedi che saranno i figli a venirti a prendere perché cambieranno le leggi. Ma pensati, questo gliel'ha con chi ha indetto il referendum, però le andava a votare. Ma sicuramente ti spara parte di quei là rossi comunisti, ecco perché. Perché voi altri avete mia il cervello collegato. Ma anche non hai il cervello collegato, non capisci, se sei contro non andare a votare al referendum, non puoi Battista, fare... scusi, mi può tradurre cosa ha detto, perché non contro. Ho capito. Comunisti, comunisti. Che dici che se sei contro il referendum, che non serve a niente, non va anche a votare, no? Altrimenti sei dissociato, capisci che non può fare due cose una contro l'altra contemporaneamente. Stavolta sono d'accordo con Battista. Tanto onesta pare. Signor Gentile, gentile, tanto onesta pare, ma anche lei no, è uno di quelli che ha le sue magagne. Io vorrei un giorno, facciamo una rubrica Le magagne di Gentile. No, questa rubrica è bocciata, capito? Anche basta sentirla parlare per capire che ha dei magagne anche lì. E sono romana. Ma cos'è una magagna, Battista? Ed è una cosa anche un po' da nascondere, no? Delle cose un po' chiare. Scheletri nell'armadio. Anche diciamo così, no, da voi, ma non è a magagna che dai le parti anche poco chiare anche nella vita, no? A dire una parola troppo, due sono poche, capisci, Gentile? Cioè, capisco, meglio non dire. Signori, è il grande momento alle 10:41 in cui convochiamo i nostri furbi, i furbetti. No, dai. I furbettoni. Voi siete un popolo di furbi, ma se volete defurbizzarvi, questo è il momento giusto. Scriveteci al 349-238-6666. Oppure... Che c'hai? Che è? È venerdì, c'è freddo, c'è appuntamento. Stai calmo. No, adesso Ritarella è finita. Ritarella con mitragliata. Oppure funamboli chiocciola radio24.it. Fate come ha fatto Paolo. E agli sgoccioli, Paolo. Ragazzi, ascoltatelo questi giorni perché a brevissimo è ricovero. Perché capito? Mi è partita una dentiera questa. Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno. Eccoci, Paolo ne ha combinata una gigante. Lo che so. Hai fatto, Paolo? No. Che hai fatto, Paolo? Ma niente. Niente, partono tutti così, niente. Vedevi il fratello depresso, sì. Questo quindi è l'incipit. Sì, esatto. È per perché, una buona causa. Sì. Esatto, perché quel giorno lì eravamo a cena, a pranzo a mangiare a casa e lui ha regalato i biglietti del concerto di Vasco alla sorella che compiva gli anni. Poi non è più riuscito a trovarli e io gli chiedo, ma ascolta, ma che cos'hai che sei così giù oggi? Voleva andare anche lui no, al concerto. Non vedo, non trovo i biglietti del concerto. Beh, gli ho detto, te li faccio io, non c'è problema. Ah, te li faccio io, non c'è problema. Così. Te li faccio io, è geniale. Come te li faccio io, non c'è problema, Paolo. Te li faccio, li fabbrico, che problema c'è? Sì, che problema c'è? Così gli avevo raccomandato di andare prima lui quei biglietti falsi all'ingresso e invece è arrivato che i cancelli erano già chiusi. Ah, cioè proprio tardi. E lei cosa ha detto? Te li apro io, non c'è problema. Non c'è problema. Esatto, più o meno c'era tutta la gente fuori dal concerto che lì sulle ringhiere chiuse e a un certo punto lui alza il biglietto e si aprono le acque, praticamente gli fanno passare. È solo che il bigliettaio sbianca un attimo perché doveva aprire il cancello e c'era tutta la gente, la ressa. Quindi chiama i celerini e aprono quel tanto da far passare lui. Ma se era falso, ma non hanno controllato il biglietto. Ma gli hanno strappato il volo, qualche vuoi che controllino lì? Ti vuoi mettere là a guardare su? Perché era in ritardo, quindi dovevano aprire i cancelli per una persona. Non è che puoi stare a fare la verifica. Diciamo, così, ecco, va bene, devo dire che questa è una furbata che va per la maggiore anche settimana scorsa. Sì. Per fare dei 20 euro, Paolo, o dei 50 euro, anche dei 500 euro, è complicato? No, è stata una cosa proprio una tantum. fatta col cuore il fratello. È che magari lì hanno un po' più di tempo per controllare, no? La banconota dei 500 euro magari un attimo la fanno passare in controluce. Si scherza, ma io vorrei capire che problema c'è, come si fa a farsi, io non sapevo neanche da che parte si inizia. Ma piantala di fare il santarellino. Gli ho fatto una fotocopia fatta bene. Ma come la fotocopia? Non c'era neanche l'ologramma, perché io mica sono capace di fare l'ologramma, vero? Quando c'è la buona volontà c'è tutto. Cioè rischiava. Ho controllato che c'era una buona carta, il tratteggio dello strap del biglietto gliel'ho fatto col cutter, fatto bene. Adesso abbiamo capito finalmente perché certi concerti sono pieni di gente, inspiegabilmente, perché è pieno di biglietti falsi, non quello sono di Vasco. Pieni di fratelli delusi e depressi quel giorno. Tra l'altro il punto fondamentale è questo, al fratello è passata la depressione. Sì, beh, certo. Ma il punto, attenzione, che Paolo aveva un fratello depresso e rischiava anche di farlo arrestare. Cioè, quindi, oltre che depresso, doveva andare anche a portargli le arance in carcere. Ha detto tanto. Se sta già combinato così, a quel punto... Erano gli anni 2000, sono passati ormai 20 anni, vero? Prescrizione. Allora, prescrizione, e soprattutto anche tu, Paolo, hai diritto alla nostra patente... Ad un colpo di mitragliata. Di... Defurbizzato. Sei sopravvissuto alla mitragliata, Paolo? Sì, speriamo. Sì. Paolo, ti ringraziamo tantissimo. Hai falsificato per il fratello depresso un biglietto per Vasco Rossi. E se voi avete fatto qualcosa di più furbo, funamboli chiocciola Radio 24. Punto. Ale. I funamboli. Caro Leonardo Manera, alias Battista, è inutile che te fai tanto il figo e te provi a imitare la lingua veneta, perché caro mio, la nostra lingua è più vecchia dell'italiano, mona. Ma caro amico, io sono di quelle parti, sono di Salò originario, Lago di Garda, che è, come si dice, un tiro di schioppo dal Veneto, e ti dirò di più, è provincia di Brescia, Salò, ma ha più influenza di Verona che non di Brescia, quindi in qualche modo sono un vostro conterraneo, diciamo così. Scusami Leo, ma eri sempre tu al telefono? Mina! Allora, signori, alle 10:48 minuti sono due o tre che ci hanno scritto vorrei defurmizzarmi, e va bene, vi chiameremo, poi ci dovete raccontare la vostra storia, vi contatteremo. Allora, cominciate oggi bevendo tanta acqua tiepida col limone. No, non è una dieta, cioè così, non è una dieta. Poi noi vi rivedremo dopo una settimana. Però se siete stati distratti questa mattina, poco male. Perché magari avete perso un po' i giornali radio. Veronica, tu sei stata distratta, hai perso i giornali radio, hai le notizie. Sì. Vabbè, ma arriva Leonardo Manera adesso, che ci racconta in 2-3 minuti tutto quello che è successo. Anche perché oggi è venerdì e quindi facciamo un resoconto delle news della settimana con tutte le notizie minuto per minuto. Passa fiducia a Rosatellum, tra le voci critiche Giorgio Napolitano, soddisfatto PD, Grasso lascia il Partito Democratico, critico MDP, 13 verdiniani votano d'accordo con il governo. Verdiniani dichiarano aver votato fiducia tecnica e non politica al governo. E francamente chi se ne frega se la fiducia dei verdiniani è tecnica o politica. Protesta 5 Stelle, pentastellati con gli occhi bendati, gridano onestà, onestà. Dall'altra parte gridano non se può fa, non se può fa. Inciuccio, PD, Forza Italia, attaccano i pentastellati. Dure critiche al PD anche da Sinistra Italiana. Critico MDP. Dal treno Matteo Renzi non risparmia bordate ai 5 Stelle. Dal treno Matteo Renzi risponde a Giorgio Napolitano. Dal treno Matteo Renzi dichiara nessuna pressione sul Presidente del Consiglio. Tutti invitano Matteo Renzi a rimanere sul treno. Critiche le ferrovie dello Stato. Banca Italia, Gentiloni riconferma Visco. Visco ringrazia Gentiloni, Renzi contrario, più opportuno un cambio. Indicazione del governatore di Banca Italia, prerogativa del Premier Gentiloni. Gentiloni affonda centrocampo, serve a Visco che conclude in rete. Tema caldo quello delle pensioni, diritti dei pensionati e esigenze della finanza pubblica. Decisione bonus Poletti. Innalzamento età pensionabile a 67 anni. Donne pensionate in Italia, reddito inferiore a 1000 euro, riferisce Istat. Reagisce Vladimir Lussuria, forse ho sbagliato a farmi operare. Giocatori della Lazio scendono in campo con immagine Anna Frank sulle maglie. Ultras Lazio intonano cori fascisti. Lotito dichiara tutta una sceneggiata. Fonti anonime riferiscono è Lotito che è tutta una sceneggiata. Critico MDP. Omaggio floreale, certo non può risolvere la vicenda. Mondo del calcio prende distanze ma poi non sa dove andare e torna indietro. Su vicenda interviene capo della polizia Gabrielli. Indagini proseguono, atteso a breve un pronunciamento della FIGC. Cade accusa di omicidio volontario per ristoratore lodigiano che uccise ladro durante una rapina. Chiuse indagini dalla procura di Lodi. Titolare resta indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Sindaci di donne esprimono solidarietà all'oste. Accelerazione, nuova legge su legittima difesa. Ci si potrà difendere solo se i ladri non danno segni di pentimento o simpatia. All'Italia punta nuovo acquirente americano. Appena si rendono conto di cos'è l'Italia poi vedi che spariscono. Cambiano carte in tavola. Ipotesi investimento 300 e 400 milioni di euro. Ammazza quanti soldi. Resterebbe anche il capitale pubblico. In Alitalia commissario Stefano Paleari lusingato da interesse del fondo Cerberus. Lotito suggerisce atteggiamento a fondo Cerberus. Andiamo a vasta sceneggiata. Lotito suggerisce atteggiamento a Stefano Paleari. Andiamo a vasta sceneggiata. La sceneggiata si dissocia da Lotito e arrivederci alla prossima partita. Buon fine settimana a tutti. Critico. chiedono se Biason sia fradeo de manera. No, se mi chiamo fradeo. Non è fradeo. Allora, signori. Devo imparare anche io il veneto. Hai visto? E quando voglio far finta che non sono romana. Allora, intanto dovete preparare le come si chiamano? Le palette da 0 a 10. Attenzione, perché chiudiamo in cantata. Oggi è venerdì, ma non di Veronica Gentili. C'è Giovanni da Bari. Giovanni. Sì, buongiorno. Giovanni, canta tu, forza. No, vai Giovanni. Non so cantare, sono stonato. Sono d'accordo con la Fedeli, volevo dire che sono perfettamente d'accordo con la Fedeli. Perché l'abbiamo trovato uno. Sei una voce I bambini non vanno lasciati, fino a 14 anni non vanno lasciati in giro per strada. Bambini, un bambino di 13 anni alto 1,75 m non l'ha mai visto. Stai buono, la nostra opinione l'abbiamo già detta. Sentiamo. Milan, no, mi faccia parlare. Sì. Lei non ha idea di cosa ci sia fuori dalle scuole. Beh, ce l'ho, bambini, avendo due figli, ce l'ho, ecco, ce l'ho. E proprio sono quei ragazzi, quelli di 13 anni, che sono quelli più aggrediti da chi vuole tipo vendergli droga. O altro, perché sono i più deboli, i più fragili, non hanno una coscienza già formata, una personalità già formata. Io le dico una cosa che forse potrà servire ai padri che sono in ascolto. Dunque, io ho avuto la fortuna di avere mio padre, io sono ricco, sì. non ho problemi a metterlo. Questa è una bella affermazione. Sì. Mio padre, mio padre mi ha sempre dato tutto, non mi ha mai negato niente, però mi ha sempre detto: guarda, ti compro tutto ciò che vuoi, tu me lo chiedi, io vado al negozio e te lo compro, ma non mi ha mai dato soldi in mano. Giovanni, questa è la sua opinione, no? Perché poi... Vabbè, lui sostiene che andando davanti alle scuole, stando più dietro ai ragazzi, non si rischia che si droghino o facciano cose di questo. Io penso che si dovrebbe giudicare caso per caso, nel senso col buon senso i genitori dovrebbero capire come, dove si trovano, insomma, qual è la situazione. Cioè, per esempio, basta guardare voi due e chiedersi, i vostri genitori vi accompagnavano sempre a scuola mano nella mano? Mio papà mi lasciava a 50 metri, perché però già alle elementari mi lasciava. Ecco, allora, visto il risultato, forse... l'isola pedonale. Visto il risultato, forse ha ragione la Fedeli, è meglio accompagnarle a scuola fino ai... Alle medie io andavo e tornavo da solo. Dipende, sai, io anche all'elementare, perché abitavo vicino alla scuola, quindi andavo da solo. Comunque, io volevo farvi ascoltare Danilo Toninelli che canta. Ce lo teniamo da lunedì. Non c'è spazio, non c'è spazio. Ci siamo persi via. Vabbè, dobbiamo motocicletta. Solo salutare. Salutiamo tutti, vai, io venerdì mi ritiro, devo cantare random, tutta cromata e tu a 16, sì. Canta addirittura una canzone diversa da quella. Cosa? E qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul caprame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì.